Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti dunque all'appuntamento con l'Europa che riparte inevitabilmente dall'incontro al Cremlino tra il presidente Putin che questa mattina riceveva il premier greco Alexis Tsipras. Putin ha approfittato per sottolineare le radici spirituali comuni tra Russia e Grecia, naturalmente basate sulla fede ortodossa. Ha detto: mi fa piacere incontrarla, rivolgendosi a Tsipras alla vigilia della Pasqua ortodossa che cade appunto la prossima settimana. Insomma, molti buoni intenti e buone parole di una visita che invece crea parecchi malumori proprio a Bruxelles. Sentiamo il servizio di Beda Romano. C'è molto nervosismo a Bruxelles per il riavvicinamento della Grecia alla Russia, mentre la crisi ucraina è tutt'altro che risolta e le tensioni tra i 28 e Mosca restano evidenti. Diplomatici europei e funzionari comunitari temono soprattutto che Atene possa spezzare l'unità europea nei confronti della Russia, accusata di fomentare la guerra civile in Ucraina. Come ritorsione alle sanzioni europee, Mosca ha sospeso l'importazione di frutta e verdura dall'Unione Europea. C'è la possibilità che il governo russo riveda questa misura, autorizzando l'importazione almeno di prodotti greci. Questa eventualità non solo spaccherebbe l'unità dell'Europa nei confronti della Russia, ma metterebbe in ulteriore difficoltà i rapporti della Grecia con i suoi partner in un campo, quello commerciale, di competenza esclusiva dell'Unione. L'incontro di oggi tra il premier greco Alexis Tsipras e il presidente russo Vladimir Putin giunge mentre la Grecia, in crisi di liquidità, continua a negoziare con i suoi creditori l'esborso di nuovi aiuti finanziari. La partita rimane complessa e i nodi numerosi. L'obiettivo è di trovare un'intesa entro fine aprile, nella speranza che entro allora il governo greco non avrà terminato i fondi nelle casse pubbliche. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Intanto, sempre su questo tema, una nota da Bruxelles: i progressi fatti finora sono lontani da quello che serve per sbloccare gli aiuti, quanto fanno sapere fonti europee sui negoziati appunto tra Atene e il cosiddetto Brussels Group, spiegando che in sostanza si è perso un mese intero in discussioni che hanno portato solo a passi in avanti che la nota definisce da bebè. E ora parliamo invece di rischio malnutrizione in Europa. Domani viene presentato il movimento Enough, voluto dalle aziende di salute animale Elanco per fare rete e sensibilizzare i soggetti europei e internazionali. Il movimento Enough ha monitorato in cifre, con un'indagine tra i cittadini europei, la difficoltà di accesso al cibo in Europa, con particolare riferimento alle proteine animali. Allora, Anna Marino ne ha parlato con Arianna Bolla, che è Market Access Manager di Elanco Animal Health. Domani verrà presentato al Circolo della Stampa Estera a Milano un'inedita indagine SVG sul tema dell'accesso al cibo nei paesi europei. L'indagine è stata commissionata dal movimento Enough di Elanco per monitorare appunto e avere una percezione più completa di quella che è la capacità di comprare proteine di natura di origine animale da parte delle famiglie europee, per fare il punto sulla situazione in Europa, quanto la crisi economica stia incidendo sulla capacità di accesso al cibo della popolazione delle famiglie europee. C'è un problema urgente quindi anche in Europa dell'accesso al cibo e questo è un problema che è cresciuto negli anni. Sì, è cresciuto negli anni e si parlerà anche di possibili soluzioni al problema della scarsità di accesso al cibo con la presentazione del movimento Enough. Il movimento Enough è un movimento che nasce spontaneo da un gruppo di dipendenti dell'Elanco, che è un'industria che si occupa di salute animale, in cui si è vista l'urgenza di trattare determinati temi sulla base di evidenze scientifiche che affronteremo da qui al 2050. Cioè, vale a dire, l'aumento della popolazione a 9 miliardi, l'aumento del 60% di domanda di carne, latte e uova e il fatto che stiamo già consumando come risorse disponibili un pianeta e mezzo, cioè una volta e mezzo la Terra. E quindi è nato questo movimento che propone delle soluzioni. propone delle soluzioni e delle piattaforme di dialogo, prime fra tutti l'innovazione, ovviamente l'innovazione, la tecnologia in agricoltura e nell'allevamento. E quando sono le 14:06 in questo istante è tutto per l'appuntamento con Europa 24, ci risentiamo domani alla stessa ora, un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.